si può fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Uptown funky up, uptown funky up. Cause uptown funk don't give it to you. Cause uptown funk don't give it to you. Don't believe me, just watch. Otto e 38 minuti, buongiorno cari ascoltatori, da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini, buongiorno e buona domenica a tutti. Eccoci qua, Milano, Monte Rosa, Carlo? Sole, anche se freschino, ormai la mattina ci ricorda che l'estate è finita, ecco. L'estate sta finendo, però no, c'è ancora finita. Un bel tempo, c'è un bel weekend, al sud però piove, eh? Ah sì, io oggi vado a Firenze rivista, andrò sì. dopo la trasmissione, spero che ci sia un bellissimo sole. Amici del sud, preparate l'ombrello, oggi e domani, credo, almeno, così ho visto sulle previsioni. 800 24 00 24, stiamo insieme fino alle 10, ripercorriamo questa settimana ascoltando un po' di voci della settimana e poi sempre a caccia di buone pratiche e soprattutto a caccia di un personaggio della settimana. Come tutte le settimane cerchiamo un personaggio che abbiamo al una quale notizia. Esatto, al quale è legata una notizia di questa settimana. E il indizio primo è... indizio roba tua, è mio, il primo indizio è mio, è così. Allora, ha fatto discutere questo personaggio, quindi cerchiamo con la mente in questo ambito un personaggio che ha fatto discutere. 800 24 00 24, aguzzate l'ingegno, il primo che indovina si porta a casa i biglietti della mostra di Escher a Palazzo Reale a Milano. Bellissimo, guarda, ieri sono passato di lì a Palazzo e c'era una coda incredibile davanti alla mostra di Escher. Il grande successo delle mostre del gruppo 24 ore. Un buon momento per le mostre in generale, ma anche in particolare per quelle organizzate dal gruppo 24 ore che ci dà dentro e noi siamo sempre qua a raccontarvele. Allora, iniziamo. Tra poco avremo il super ospite, ce l'abbiamo subito. Ce n'abbiamo un paio di super ospiti. Oggi sono solo super ospiti. Il sindaco di Livorno, Nogarin. Movimento 5 Stelle, tra poco. Adesso iniziamo, risentiamo un po' di cose di questa settimana. Vai! Vorrei dire che l'Italia farà da sola, l'Italia farà quello che serve in termini di migrazione, in termini di lavoro sui paesi africani d'origine, e mi dispiace perché questa è un'occasione persa per l'Europa. Mi si nota di più se vengo o se non vengo. Abbiamo questo detto, è stato se... il nostro gioco di ieri. Se vengo da solo, se vengo mi metto da una parte o se non vengo direttamente. Questo è il Renzi di queste ore sul rapporto con Merkel, Hollande, il vertice di Bratislava, la conferenza stampa che non c'è stata, congiunta. Abbiamo detto, insomma, a Renzi gli fa comodo in questo momento dire batto i pugni sul tavolo dell'Europa. Sì, un po' secondo me deve battere veramente. Non credo che sia tanto una questione di comodo, perché comunque è abbastanza terribile il fatto che non sia stato invitato, non ci sia una risposta. Sì. E facile. Renzi dice facciamo tutto da soli. Io sono paurissima, ecco. No, perché poi gli altri leader europei dicono ma queste cose che tu dici in conferenza stampa, poi quando facciamo il vertice non è che ce le dici a noi. Sembra quasi che sia un gioco delle parti, ma è un gioco delle parti. Poi naturalmente staremo a vedere, quello che possiamo dire è fare anche un po' di satira. Tra l'altro parleremo del Festival del Ridicolo tra poco con Bartezzaghi, quindi facciamola anche noi un po' di satira ogni tanto. Qua però si parla dell'anniversario del terremoto del 24 agosto nel Lazio, sentiamo le ultime notizie su questo fronte. Come minimo nelle aree interessate a questo terremoto, come minimo stiamo sui 4 miliardi, ma è un'analisi che dovrà essere verificata punto punto. Noi vogliamo ricostruire in modo tale, attraverso il miglioramento sismico e l'adeguamento negli edifici strategici delle scuole, che assicuri che con un 6.0 non c'è il crollo e i cittadini di quei comuni non rischieranno più la vita. I sit in double figures. Look into your eyes like I'm looking into double mirrors. Could you make it any clearer? Everything's such a blur. It's not my turn, it's hers to get her. On a late night, coming home from way too many train rides. Face not as red as my face. I'm home at the same time. High real estate's fine. Spoken like a dragon, but don't chase lines. Hey, I haven't slept for the past week. And 2 hours ain't enough for me. Con questa Homeless di Ed Sheeran parliamo di questo. Siamo alle solite, insomma, ci sono tante case sfitte e tante persone che hanno bisogno di una casa in Italia, persone che non possono magari comprarsela, permettersi certo. anche solo di fare un mutuo, e insomma ci sono dei dati che confermano questo. Milano ha appena fatto un censimento sugli immobili vuoti, sugli immobili sfitti, sono tantissimi. Poi c'è un sondaggio, una statistica di Solo Affitti, un sito per affitti, che parla di oltre 7 milioni di case vuote in Italia. Andiamo a Livorno. È un numero pazzesco, il 22,5% è più di una casa su 5 vuota. L'abbiamo annunciato, andiamo a Livorno con il sindaco Filippo Nogarin, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Grazie per essere qua di domenica, ma non è a Palermo? Tra l'altro. Sono a Palermo. Sono a Palermo. Quindi tra un po' lo vedremo sul palco della kermesse, forse. È la domanda più semplice a uno del Movimento 5 Stelle, sì. Dire non sei a Palermo, giustamente. No, oggi. Perché Pizzarotti non c'è, per esempio, non si sa qua quei sindaci. Ultimamente c'è un po' di maretta, insomma, nel movimento. Ma a parte questo, parleremo anche di questo. Voi quest'estate siete usciti con un annuncio importante, e si parla addirittura di un esproprio agli sfrattati. Le case sfitte dei privati. Sappiamo che la realtà è un po' diversa, forse, ma sindaco, come vi state muovendo su questo terreno? Allora, prima di tutto, questa è una mozione e non è assolutamente rivolta ai privati, ma è rivolta alle società pubbliche, alle grandi assicurazioni, banche, che sono magari proprietarie di un grande patrimonio immobiliare che è quasi completamente dimenticato, che spesso è parte integrante di un capitale di una società, ma che poi dopo viene oggettivamente quasi completamente dimenticato. Quindi la mozione ha quella funzione e mette un altro punto in evidenza, cioè il fatto che questa azione verrebbe compiuta soltanto nel momento di una grave emergenza, cosa che viene sancita direttamente dalla prefettura e che quindi non è governata dal processo dell'amministrazione comunale. È semplicemente un atto di buon senso, non ha niente a che vedere con l'esproprio proletario, come qualcuno ha tentato di indicarlo. Però noi in realtà avevamo letto che le case dei privati rientrassero in questo provvedimento, non che fossero solamente le case del demanio. Ma ci sono dei giornalisti creativi che scrivono cose che non sono assolutamente vere. Però io voglio mettere in evidenza invece un'altra cosa, visto che questo è un problema e l'avete sollevato anche nell'introduzione. Sì. Effettivamente il gran numero di appartamenti che sono sfitti è un problema. È questo il punto, certo. Bisogna trovare un modo intelligente, probabilmente è rispettoso del diritto, però di affrontare questa situazione. Ma lo è ancora di più, e quello che vi racconto adesso è la parte ancora più grave. Lo è ancora di più nel momento in cui voi fate questo sottoinsieme di analisi e andate a vedere quello che è il patrimonio immobiliare pubblico. Questo è ancora un dato più grave, nel senso che una pubblica amministrazione spesso è nelle condizioni in cui ha un grande patrimonio immobiliare sfitto, ma non ha le condizioni economiche in bilancio, perché ci sono stati enormi tagli, voglio dire gran parte della spending review degli ultimi 4 anni. Renzi l'ha fatta, è caduta sui comuni, sì, esattamente, sugli enti locali. Beh, questo però che cosa comporta? Non è soltanto un tagliare il bilancio, cioè la ricaduta è questa, che magari una pubblica amministrazione proprietaria di molti immobili che potrebbe rimettere in circolazione, quindi potrebbe assegnare a chi ne ha bisogno, ma non lo può fare per un elemento che è chiarissimo, e cioè: se c'è un impianto elettrico, se ci sono delle finestre, se c'è un impianto idraulico che non è a norma, io, sindaco responsabile, non posso espormi ad un ricorso o addirittura a questioni ancora più pericolose dal momento in cui... Cioè, mettere a rischio la salute delle persone che ci stanno dentro. Esattamente. E bisognerebbe fare degli interventi, non ci sono i soldi, immagino. Non ci sono i soldi, vero? E, Esattamente, e questo è il punto nodale di tutta la questione. Guardate bene che la cosa che avete detto, l'introduzione, è assolutamente vera, ma ricopre una parte che è privata, mentre quello che è veramente drammatico è che questo patrimonio in gran parte è anche pubblico e che il pubblico non ha le risorse per poter intervenire magari talvolta anche con piccole cose per rimettere a sistema questo patrimonio immobiliare. Ma quindi, in realtà il vostro emendamento si occupa semplicemente della parte pubblica. Allora, facciamo la domanda e le chiedo di rispondere dopo il traffico, però, sindaco, perché devo dare la linea alle informazioni sulle strade, altrimenti mi licenziano, e quindi si prepari la risposta alla domanda di Carlo, a tra poco. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, di nuovo con il sindaco di Livorno, Filippo Nogarin. Stiamo parlando di immobili vuoti, di case sfitte, di come risolvere questo problema. Lei ha appena detto, distinguiamo tra edifici pubblici e edifici privati. Noi siamo il comune, è ancora più grave che ci siano degli edifici pubblici che sono inutilizzati. Spesso non si riesce a utilizzarli perché mancano rispetto delle normative e le risorse per aggiustare anche semplicemente l'impianto elettrico. Ci dice però cosa cercate di fare con questa mozione, cosa potrebbe cambiare se, perché va bene, è stata interpretata in maniera esagerata, l'esproprio, non c'è l'esproprio, soprattutto non delle case private, però come l'affrontate? La mozione è un atto politico che in qualche modo va però a sottolineare una caratteristica che è già inserita nelle peculiarità di un sindaco. Se un sindaco, al di là di quella mozione, può già effettuare un esproprio in caso di situazioni eccezionali. E questo lo dice il testo unico enti locali, mentre la mozione, essendo un atto politico, porta maggiore forza a quella che comunque è una caratteristica che un sindaco potrebbe portare avanti a prescindere. Quindi tutto il dibattito che ne è nato intorno è un qualcosa di estremamente utile, proprio perché si tratta di politica, a rimettere al centro un argomento. Però, scusi sindaco, benissimo, io leggo dai vostri dati che avete 280 sfratti ogni due mesi per morosità incolpevole, cioè persone proprio che non ce la fanno a pagare. E allora c'è questa emergenza, ci sarà qualcuno di questi espropri virgolettati? Ma guardi, io mi sono trovato in prefettura un paio di giorni fa con la nuova prefetta che è stata assegnata a Livorno e abbiamo affrontato, dati alla mano, quello che dovrebbe essere un fine anno molto caldo e insieme abbiamo individuato una serie di interventi da fare. Quindi è vero che c'è una tensione abitativa molto alta. Ricordo anche che Livorno, insieme a Firenze, è una delle città che maggiormente ha questo problema della tensione abitativa. Naturalmente poi ci sono altre regioni in Italia, Napoli, Milano, insomma ce ne sono altre che oggettivamente hanno questo tipo di tensione abitativa, ma ritornando a noi, la questione per quanto riguarda Livorno è che da qui a fine anno noi faremo una serie di interventi che dovrebbero andare ad individuare 30 abitazioni, dalle 25 alle 30 abitazioni proprio reali, quindi non utopiche, cioè abitazioni che siamo già nelle condizioni di poter. Quindi 30 abitazioni che escono fuori da questa revisione del patrimonio pubblico a disposizione del comune. Esattamente, perfetto. Questo è questo che volevo per l'appunto rimettere in evidenza. Sono già proprietà del comune, della insomma, entreranno in funzione. Ne vedremo delle belle entro fine anno. Staremo a vedere. Senta, esatto. Però ci dica qualcosa di Palermo. Grillo si riprende il movimento. Palermo è bellissima, vi dico questo. Ieri sera sono andato in giro, oggi è il compleanno di mia figlia, un anno, quindi Camilla, gli facciamo un sacco di auguri, ma la cosa che ci chiediamo è se vi aspettavate che Grillo dicesse il capo sono io sono il capo politico, nessun passo di lato. Quando ho detto faccio un passo di lato stavo scherzando. No, ma non ha detto questo. Sì, come no? L'abbiamo sentito tutti. Non ha detto questo. Beppe è sempre stato il nostro garante, il nostro faro, e lo ringraziamo anzi di aver avuto sempre così tanta lungimiranza nel vedere, nell'individuare le questioni analizzandole con tutti quanti noi in modo molto trasparente. Però sembrava che il movimento stesse cambiando col direttorio, gli organi intermedi, quasi diventando un partito, si ritorna alla fase originaria in qualche modo. Ma no, assolutamente, anzi ieri ha detto apertamente che è sua intenzione quella di avere un atteggiamento di sempre maggiore apertura. E io mi ricordo il punto nodale della questione è che Beppe ha sempre detto quando tutti quanti saremo più maturi e potremo fare un cammino, io sarò disponibile sempre a dare a lasciare corda a chi. Quindi non siete ancora maturi, via. Esatto. Noi siamo maturi, ma l'ha detto e l'ha dimostrato in tutti i modi possibili e immaginabili. Forse la vicenda Roma ha aiutato a raggiungere questa conclusione. Scusate, però il fatto che sia tornato non vuol dire che cancella tutto quello che è stato. La storia di ognuno di noi, cioè, e anche quindi del movimento, è un qualcosa di assolutamente coerente. Certo. E io credo che Beppe semplicemente abbia ritrovato magari un po' di forza anche dopo periodi di grandissimo stress per rimettersi, e comunque non l'ha mai fatto di togliersi completamente, cioè ha sempre veramente avuto un ruolo proprio come garanzia per ogni situazione che poi aveva la necessità di un suo intervento. Lui non si è mai negato, e questo si sarebbe aspettato che parlasse anche Casaleggio? A prescindere, l'ha detto una cosa che io ho apprezzato tantissimo. Ha detto: io non sono qui a sostituire mio padre, ma a ricordarlo esattamente, perché Gian Roberto e Beppe hanno avuto questa visione, insieme hanno costruito un qualcosa di straordinario. Basti pensare che io, che sono un umile ingegnere, mi sono trovato balzato all'interno di un sistema che senza tutto questo sicuramente non ci sarebbe stato. Devo chiudere perché devo dare la linea al giornale radio. Grazie però per essere stato noi, Nogarino. Grazie, buona domenica mille. E buona Palermo. Grazie, a dopo. 800 24 00 24. Se negli ultimi 30 anni vi siete persi in qualche universo parallelo, mi presento. Sono Dylan Dog, quel Dylan Dog. Dylan Dog sta arrivando su Radio 24. Domenica, ore 14:30. Voice Anatomy, Radio 24. Non mancate, sarebbe un peccato. Parola di Bond, James Bond. Si può fare. Cronache da un paese migliore. È da irresponsabili dire sì a questa candidatura. È da irresponsabili, l'abbiamo detto con forza in aula Giulio Cesare a giugno del 2015, eravamo in quattro. Lo abbiamo ribadito in campagna elettorale e lo diciamo qui oggi, mantenendo una posizione. Non vogliamo che lo sport sia utilizzato come pretesto per ulteriori colate di cemento sulla città. No alle Olimpiadi del mattone, assolutamente no. È stata anche la settimana, ben ritrovati ascoltatori, buongiorno da Alessio Maurizio. E da Carlo Gabardini, buongiorno, buona domenica. È stata anche la settimana del no alle Olimpiadi. Va bene, questo insomma, vogliamo riaprire questo dibattito, se volete riaprirlo voi, ascoltatori, ci sta, ne parleremo da adesso fino all'eternità. Diciamo solo che l'avevano detto, perché questo è importante, nel senso che uno va a votare un sindaco che dice io dirò no alle Olimpiadi, sarebbe stato molto più pazzesco se avessero detto di sì. Poi si può discutere sui modi, sul fatto che tu dai un appuntamento e non ti presenti dicendo che hai un altro impegno, invece sei al ristorante. Però sul no mi sembra abbastanza preciso. E poi insomma c'è anche da dire che la domanda a cui bisognava dare una risposta è: può una città come Roma, che ha un debito di 13 miliardi di euro sulle spalle, che sta in un paese che ha il più alto debito pubblico al mondo, indebitarsi ancora per fare i giochi olimpici, che sono una cosa bellissima, importantissima, tutto, però non sono una cosa fondamentale. Questa era la domanda. Uno poteva rispondere anche sì, o poteva rispondere no. Beh, risposta, in realtà no. Alcune città si sono risollevate, non molte si sono risollevate poche, quando hanno fatto le Olimpiadi. La cosa che si può dire è che in realtà io mi aspetto che nel momento che sono i 5 Stelle invece magari ci siano meno ruberie, quindi magari tutti questi soldi che arrivano dal Comitato Olimpico potevano portare anche dei vantaggi, però insomma mi sembra coerente il no. Allora, Malagò non l'ha presa benissimo, Credo che insomma doverosamente abbiamo detto magari se è il caso e se ci vuole parlare la sindaca magari ci dedica un pochino più di attenzione, penso anche di rispetto nei confronti del mondo che rappresentiamo. Allora, devo dire però una cosa agli ascoltatori, perché siamo partiti con l'intervista al sindaco di Livorno, Filippo Nogarin, col quale abbiamo parlato delle case sfitte e poi anche di Grillo, e c'è un ascoltatore, adesso non trovo più il messaggio, su 349-238-6666, che dice parlate di Grillo, la solita disinformazione, parlate delle proposte che vengono fatte a Palermo al raduno del Movimento 5 Stelle. Ma come, ascoltatori del Movimento 5 Stelle, ma non fate sempre le vittime? Ma se abbiamo invitato Nogarin proprio per parlare di quello che fanno contro le case sfitte, perché c'è stato un annuncio quest'estate, sproprio delle case private, poi ha detto non quelle private ma insomma quelle pubbliche sfitte, daremo 30 case entro la fine dell'anno a chi ne ha bisogno, è una buona pratica, siamo felici, abbiamo chiamato per questo, non ci dite che non... E poi anche stiamo parlando delle proposte, nel senso che dire da d'ora in poi il capo politico sono io, non so, o è una proposta o è un diktat, ma comunque è una proposta, è quello che è stato detto da Grillo, non è che stiamo parlando di altro. 800 24 00 24, Biagio ci chiama da Napoli, buongiorno Biagio. Buongiorno, prima di rispondere al personaggio, introdurmi il dibattito che state facendo? Assolutamente. Certo. Grazie. Senta, io per quanto riguarda diciamo le Olimpiadi, che insomma di cui ci sta insomma parlando insomma da diversi mesi, ma riflettevo su di una cosa, ma i soldi che si devono impegnare per queste Olimpiadi, ma perché non li destinano alle popolazioni terremotate insomma che abbiamo avuto recentemente? Cosa diciamo più umana insomma che ci possa essere. Questa è un po' la ratio con cui il Movimento 5 Stelle ha sempre detto no alle Olimpiadi, si possono destinare i soldi pubblici ad altre cose più importanti, è un modo di vederla. Uno potrebbe anche dire che sì. Prego. Vabbè, per Biagio, quanto riguarda il personaggio della settimana sembrerebbe troppo facile, ma per me è Virginia Raggi. Sembrerebbe troppo facile, mi piace la premessa, perché vabbè, la notizia della settimana l'abbiamo appena detta, c'è il no alle Olimpiadi e non è l'unica, direi, quindi manca insomma ancora il completamento della giunta, ricordiamolo, quindi notizie sulla Raggi ci sono, e in effetti non era lei non è il personaggio che avevamo scelto, perché Biagio era giusta la premessa, ma l'importante è partecipare, avendo parlato anche di Olimpiadi. Grazie. Biagio, buona giornata. Andiamo con Maurizio da Verona, buongiorno. Buongiorno a voi a tutti. Prego, Maurizio. Allora, io vorrei citare il personaggio che secondo me ha fatto discutere moltissimo, il padre Amort. La morte generale, ovviamente. Certo. I presunti esorcismi. Ricordiamo questo personaggio chi è esattamente, perché magari non tutti se lo sono segnato. Maurizio? Com'è? Ricordiamo la notizia, il personaggio, chi è un po'. Entriamo nel dettaglio. Il personaggio è un padre esorcista che lavorava ovviamente per la Chiesa. Sì. Ha fatto i suoi esorcismi in passato. Filippo Reggi le dedica questo, Sente? Parliamo di esorcismi, in effetti ci sta. E cito anche una frase famosa di padre Amort che disse: io ho paura di Satana, è lui che deve avere paura di me. Che, insomma, evidentemente adesso si sta anche svolgendo una lotta importante. E quindi la notizia, Maurizio, c'era come, ma non era neanche lui il nostro personaggio. Ma grazie di aver chiamato, di aver ricordato la notizia della morte dell'esorcista padre Gabriele Amort. È un altro personaggio che ha fatto discutere. 800 24 00 24, tra poco vediamo un altro indizio. Marco da Arezzo, buongiorno Marco. Buongiorno, non so se il mio intervento è ancora pertinente riguardo alle case sfitte. Assolutamente, certo. Certo. ma secondo me la soluzione, più che l'esproprio, il presunto tale o insomma le solite strade corte sulle spalle dei privati e del cittadino che si smazza, perché mantenere una casa costa e vuol dire lavorarci sopra. Però ricordiamo che il sindaco non ha parlato di case private e di espropri sì, di case private. Di fatto questo è, perché abbiamo degli inquilini che non pagano, e non tutti perché non hanno le possibilità, perché poi magari si comprano lo smartphone, girano con le macchinone, intestano i beni ad altri, risultano nulla tenere. Va bene, i furbi ci sono sempre. Allora, ma lei è capitato, bravo, Marco? Marco, lei è capitato come, questo? E come? Mio fratello, una bella mattina, un inquilino che era 2 anni che non pagava, si presenta alla porta, dice: guardi signora, per favore, senta testuali parole, dottore, non mi rompa i coglioni che ho cambiato la frizione al Porsche, adesso non ho soldi. Perché devo pagare io la frizione al Porsche? Ma ho capito. È la battuta straordinaria, però in realtà abbiamo parlato col sindaco dell'altro problema, del problema delle persone che non hanno le case, non delle persone che stanno dentro le case senza pagare l'affitto, che è tutt'altro problema, quello che sta sottolineando lei. Sì, ma io sto dando una soluzione. Poi prego, prego. Però... se ci fosse innanzitutto la possibilità di mettere fuori casa, come succede in altri paesi, i furbi, fuori, il giorno dopo fuori. Il problema è chi decide se sono furbi o se sono bisognosi. Una legge decente. E altrimenti il comune, piuttosto che mantenere un patrimonio che costa sempre molto di più che mantenuto da un privato, provveda a pagare l'affitto di chi non può. Per un periodo che può essere di 6 mesi, 1 anno, ma poi il lavoro che ha avuto una persona che non poteva, è stata licenziata, e tu guarda, non ti preoccupa, sempre pagato, una persona correttissima, ha ritrovato il lavoro e dopo portandomi anche 50 euro al mese, si è rimessa perfettamente in regola. Perfettamente in regola, lasciato perdere. Sta dicendo che deve essere il comune che garantisce e paga, di modo che i privati non vengano toccati, ma in questo momento non mi sembra che ci siano soldi nelle casse per cui i comuni possano garantire gli affitti ai privati. Se cassero meno sarebbe meglio, certo. E soprattutto che chi fa il furbo venga messo fuori. Mi sono state rese delle case, una casa era distrutta. E vabbè, avrà avuto la caparra, no? Va bene Marco, è chiaro quello che lei dice, ci sono a volte delle situazioni nelle quali c'è chi fa il furbo, l'inquilino anche se può non paga e questo può essere un problema, può essere un disincentivo ad affittare le case, non può spiegare però tutta la faccenda. Io tra l'altro invece difendo la scelta del comune di Livorno di dire andiamo a cercare, ma non solo il comune di Livorno, di chi lo sta già anche facendo, tra gli immobili pubblici che ci sono inutilizzati. Non costa nulla al comune, perché quello che dice lei comunque è una spesa, diciamo, garantire, pagare l'affitto a chi non se lo può permettere. Qualcuno lo fa, sono politiche diverse tra loro. Il comune di Livorno dice andiamo a prendere le case sfitte che ci sono e pubbliche, gli immobili, ed utilizziamoli per chi ne ha bisogno. È un modo per ottimizzare e per incentivare un po' anche, perché insomma gli immobili vuoti, sfitti, è sempre un peccato vederli, soprattutto quando poi c'è qualcuno che ne ha bisogno. Quindi un sistema di incentivi e disincentivi va trovato. Poi è giusto anche il problema che sollevava lei in alcuni casi, poi lì c'è la lentezza della giustizia, perché uno chiama il giudice e il giudice deve valutare se l'inquilino in effetti potrebbe permettersi, non sta pagando, sta facendo il furbo, allora lo manda via. Solo che in Italia quanto ci vuole per fare una casa del genere? 6 anni? Sono un po' tanti. 800 24 00 24. Stiamo cercando un personaggio della settimana. Diamo anche il secondo indizio? Lo diamo? Certo che sì. Certo che sì. Allora, secondo indizio. La notizia legata al nostro personaggio è la notizia è legata a un anniversario. Scusate, mi ho detto 2 volte legato. 800 24 00 24. Si può fare. Cronache da un paese migliore. I keep it in and pretend that I didn't care. Hey, Jessica, you're so funny. You've got Chi è che sta ridendo, dice Jesse J in questo pezzo, e vi ricordo che tutte le nostre canzoni le ritrovate sul sito di Radio 24, alla pagina di Si può fare, ci sono le playlist di tutte le puntate. Ridiamo tutti insieme con Stefano Bartezzaghi, buongiorno e buona domenica, grazie per essere con noi. Buongiorno, ridiamo con e non di, spero. Sì, esatto. Buongiorno Bartezzaghi, direttore, lo ritroviamo volentieri, del Festival del Senso del Ridicolo a Livorno, ieri l'altro forse, e oggi, si chiude oggi, è così? Sì, si chiude oggi, abbiamo incominciato venerdì, e insomma una specie di festa qui a Livorno, città diciamo particolarmente vocata e in cui è particolarmente temerario fare un festival dell'umorismo. Sì, perché l'asticella è già alta a Livorno, è già abbastanza alta. Allora, sì. Hanno ottime abitudini. Cioè, poi c'è il vernacoliere. Vabbè, io sono di lì vicino, Bartezzaghi, sono di Pisa, anche se siamo... Vicino ma Pisa, però, insomma. Vicino ma lontano. Esatto. Non volevo dirlo, non volevo turbare questo momento, questo idillio, però ho toccato dirlo. Non so se fa parte proprio del sottotitolo del festival, Festival dell'umorismo, della comicità e della satira. Penso è una scelta, penso. Beh, sì, perché insomma è un territorio molto ampio, ecco, questo, appunto. No? E per questo poi il titolo è Il Senso del Ridicolo, perché diciamo nel riso ci sta tutto dentro. Queste distinzioni non sono ancora arrivate, no? Però se casca proprio a fagiolo, è importante fare questa distinzione, perché per esempio quando si è parlato della vignetta di Charlie Hebdo sul terremoto, si è detto satira. Io mi sono andato a rivedere perché non capivo il significato di satira. In effetti satira non è detto che sia una cosa che faccia ridere, no. È una cosa diversa dalla comicità, no? Allora è giusto anche spiegare il significato, a cosa servono anche queste tre cose diverse: comicità, satira e umorismo. Beh, infatti si parte, il nostro logo è una buccia di banana, quindi si parte proprio da quello che fa ridere già all'età di 2 anni e su cui poi si costruiscono delle strutture anche molto raffinate, come a volte è la satira, come può essere l'ironia. Oggi per esempio abbiamo Andrea Cane, che è un editore ma anche uno studioso di letteratura inglese, che ci parlerà del dell'English humor, che è una specie di mistero, no? La freddura, qualcosa di cui probabilmente non abbiamo veramente... È un mistero però del quale se ne parla spessissimo. Sì. Lui sostiene che ci sia sotto un grande equivoco, e spero appunto che ci istruirà al proposito con quella leggerezza che insomma è necessaria, tanto più con un argomento del genere. Cioè, è temerario fare un festival sul umorismo. Cioè, un equivoco perché... nel senso che in realtà non c'è niente da ridere in quel tipo di umorismo inglese? Nel senso che per umorismo inglese, secondo lui, questo sì. È il trailer che mi ha dato lui, sì. Intendiamo comunemente qualcosa che non è proprio esattamente ciò che intendono gli inglesi, e a quel punto se lo spiegherà, e dopo per fortuna ci sarà anche Ottavia Piccolo che ci legge una novella di Alan Bennett. Ah, perfetto. E lo vedremo in corpore vili. A proposito sempre di satira, no? C'è un caso che ha fatto discutere, ed è il caso di questi operai della Fiat che sono andati a processo addirittura, perché davanti a un cancello della Fiat, dopo tra l'altro che, questo va detto, c'erano stati dei casi di suicidio tra dipendenti della Fiat, loro avevano inscenato una sorta di protesta satira con un marchionne impiccato di fronte alla fabbrica, una cosa abbastanza violenta però giustificata secondo loro da quello che era accaduto, e il giudice però sembra che non stia che non abbia capito la satira. Non ha capito la satira. Tu difendi questo tipo di satira, se vogliamo chiamarla così, o no? Ma diciamo che quando per un caso va in sotto giudice, e lì ci sono le leggi della Repubblica che difendono anche gli eventuali diffamati, per cui sospenderei il mio giudizio sulla vicenda, però... La cosa che dico io della satira... Non ti mandiamo i giudici a Livorno a portarti via. Ma no, è che appunto secondo me il limite è quello del codice penale. E la cosa che dico sulla satira, che mi viene da dire, è questa: che come linguaggio non ha limiti per definizione. Quello che ha però è una delimitazione, no? Cioè, Charlie Hebdo alla fine ha fatto una vignetta, l'ha messa in un giornale satirico da cui nessuno si può aspettare il buon gusto. il male alla fine degli anni 70 ha fatto delle cose in pieno caso Moro, ha fatto delle cose terribili dal punto di vista del buon gusto. Oggi la satira è ovunque, ha perso le sue delimitazioni, quindi quando fai un'immagine di Marchionne impiccato è in una manifestazione, è un contesto di satira, puoi usare quel linguaggio o resta soltanto la violenza? E questo un po', io penso, l'equivoco in cui i mass media, i social media, il fatto che noi prendiamo una vignetta... È il contesto, secondo te, che conta? Una vignetta può finire sulla maglietta di un ministro esibita, sì, durante un talk show, no? E allora a quel punto cos'è? Sotto la satira a volte si fanno, con la scusa della satira, diciamo, lo scudo della satira, ti fanno delle cose molto violente. Terribile, è vero. Se mi permetti, invece io azzardavo anche un altro tipo di lettura, ma voglio chiederti consiglio. Nel senso che mi sembra anche che in questo caso specifico ci sia un coinvolgimento diverso, nel senso che di solito la satira siamo anche abituati al giullare, che è un po' super partes, che quindi prende in giro il re, ma non è lui, non è che sta difendendo se stesso. Quindi in questo caso non è che tu stai raccontando, ma sono proprio gli stessi operai che in qualche modo è un attacco più frontale nel momento che hanno un manichino impiccato e non è che stanno facendo un commento esterno. Sì, ma appunto comunque anche gli slogan dei cortei degli anni, fine anni 60, anni 70, potevano dire delle cose molto molto pesanti e chiaramente anche nel momento della rabbia tutti i linguaggi disponibili vengono utilizzati. Che sia realmente satira secondo me non si può dire. Certo. Secondo me non si può dire. La satira ha bisogno di un contesto che dice questa è satira e all'interno di quello è veramente consentito tutto. Senti, ma giunto al termine di questi tre giorni di senso del ridicolo a Livorno, cosa ne pensi di questo momento degli italiani? Hanno voglia di ridere, di sghignazzare o magari di essere sorpresi anche dalla satira, per esempio, cosa di cui stavamo parlando adesso? Qual è il momento dell'umorismo oggi in Italia? Cosa prevale secondo te tra gli italiani? È un momento molto confuso nelle interviste che ho dato in questi giorni. Alcune volte mi è stato chiesto, pensa anche lei che non ci sia nulla da ridere, e altre volte mi è stato chiesto, ma non è che si sta ridendo un po' troppo? Cioè, c'è un po' tutto, è il contrario di tutto, ovviamente. C'è un po' tutto, è il contrario di tutto, perché in effetti il battutismo ha dilagato dappertutto, come le cose troppo... Vedi Twitter. Ecco, sorprende un po' di meno e la qualità un po' diminuisce. Dall'altra parte ci sono i professionisti della satira. Io ho avuto il piacere di avere di fronte 1000 persone al Teatro Goldoni, ho intervistato, insomma, ho fatto una conversazione con Geppi Cucciari. Mm-hmm. Ecco, e si vede che chi fa questo mestiere deve trovare un linguaggio molto proprio per, insomma, anche staccarsi dalla ridancianità diffusa. Poi le vere sorprese sono: ieri sera Ottavia Piccolo ha ricordato l'Ariosto di Ronconi e Sanguinetti, ce ne ha lette delle parti, e vedere appunto 500 persone che capiscono che l'Ariosto non è soltanto un tema da maturità, ma è la linea anche umoristica della letteratura italiana, almeno in parte, insomma, quelle sono... È bello, è la magia del contesto, il contesto del teatro che consente anche queste cose. Senti, dove non c'è molto da ridere, ci è sembrato a noi questa settimana, è su questa polemica e questa rottura tra Milano e Torino sul Festival della Letteratura, che su cui tu pure hai scritto qualche cosa. Da bambini ci chiedevano chi è che ha cominciato prima, no, quando c'è un litigio. Perché qua sembra che sia un po' Milano che ha tirato la corda andando contro Torino, però insomma non vogliamo farti prendere parte. No, ma io appunto su questo devo dire che appunto il titolo Il senso del ridicolo per questo festival è mio e quindi diciamo è uno dei valori a cui io realmente credo e mi pare che in questo contesto Torino aveva tantissimi problemi, Milano ha tantissima diciamo voglia di emergere. Mi pare che veramente la dimensione infantile che hai dato tu a questa disputa ci sia tutta, sia sia quella giusta. Il senso del ridicolo qui è stato smarrito, cioè, contemporaneamente, anche perché parliamo del libro, un oggetto che diciamo avrebbe bisogno di cure un po' più unanimi in questo momento. Eh sì, questo sicuramente sì. Non c'è da ridere, ma c'è da cadere nel ridicolo, sicuramente. Sì, sì, no, ma c'è anche tanto da ridere, ecco. Sì, beh, in effetti sì. Beh, staremo a vedere. Qui qualcuno sta tirando la corda, vedremo. Milano ha già tanti eventi, questo si può dire. E il Salone del Libro storicamente era Torino, questo va detto. Perché poi ci dispiace questo, però insomma non ne capisco molto di più di quello che ho appena detto. Bartezzaghi, grazie mille per essere stato con noi, buona chiusura di festival, tante risate e anche un po' di un pizzico di... Ma grazie a voi, e se continueremo anche l'anno prossimo, come spero e come sembra, sì. Insomma veniteci anche voi. Assolutamente, molto volentieri. E Livorno è una città meravigliosa, a volte lo ammettono persino i pisani. Io devo chiedere a Nogarin se mi fa entrare. Però. Ma io non sono pisano, quindi essendo io di Milano direi che posso venire tranquillamente e adoro Livorno. Carlo, quindi... vai avanti tu. Frontiere aperte per tutti. Esatto. Ciao grazie. Stefano, grazie. 800 24 00 24, cerchiamo un personaggio della settimana, l'abbiamo appena detto, il secondo indizio è un anniversario, il primo indizio era che è un personaggio che ha fatto discutere. State ascoltando un programma offerto da Microsoft Dynamics, soluzioni ERP e CRM per accelerare il tuo business. Sentirsi come un papa senza santi da pregare, si può fare. Allora, Marilena ci chiama da Chieti. Buongiorno e benvenuta, Marilena. Buongiorno e complimenti per la trasmissione. Grazie mille. Grazie. Prego. Allora, io pensavo Beatrice Lorenzin col primo indizio, perché avevo sentito solo quello. Quindi... Ha fatto discutere e quindi sicuramente ricordiamo anche che cosa, per quei due o tre che non se ne sono accorti cosa è successo. Sì, e praticamente per il Fertility Day, insomma, diciamo la pubblicità è stata un po' discutibile, ecco. Sì, questa campagna... Sia la prima, sia la seconda campagna. Sì, mi permetto di dire che, insomma, paghiamo noi, ecco, vorrei un lavoro fatto un pochino meglio, ma se posso dirlo... Sì, certo che può dirlo. La campagna di comunicazione sulla salute svedese o danese, perché in quel manifesto sembravano tutti danesi, biondi, con gli occhi azzurri, che ridevano. In realtà era una pubblicità di un dentista, forse. Era una foto stock di cose usate spesso per cose dentistiche. La notizia c'è gigantesca, anzi più che della settimana, direi che la notizia è degli ultimi mesi, perché questa campagna è iniziata prima con una campagna sessista, poi con una campagna razzista, dove appunto persone del nord in Lacoste erano contrapposte alle cattive compagnie, che invece erano dei negri drogati. Ci e così vuole per dire intenderci. Però che non era lei il personaggio. Ma non era lei il personaggio. Mancava forse la seconda parte, il secondo indizio, che è quello relativo all'anniversario. Enrico da Bergamo, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Eccolo qua. Prego. Per me era, ripeti, Mogol. Così, Mogol. Mogol. E come mai? Come mai? Beh, l'anniversario sta parlando da tanto tempo, o comunque negli ultimi tempi, sì. Ci sarà presto una trasmissione televisiva, ho pensato a quello. E poi, se mi permettete, vorrei fare una considerazione a proposito delle Olimpiadi, ma brevissima. Sì, vada, vai. Vado? Sì, certo. Mi ha impressionato il personaggio Malagò. Malagò lo ricordo all'epoca di una piscina fatta ad Ostia, che non era neanche regolamentare per in corrispondenza dei campionati che ci furono a quell'epoca. Sì, mondiali di nuoto, sì. E poi Malagò, così guardando sul giornale, è arrabbiato nero e così via, e pare il bambinetto a cui hanno tolto il giochino che gli consentiva di andare a destra, manca di qua. Mi fa ridere perché in effetti ha dato un po' quella sensazione. Comunque, Enrico, sì, Malagò è un senatore, non di fatto, ma così, ad honorem dello sport italiano, è lì da tanti anni, nel bene e nel male. Chi ci vuol vedere il bene, chi ci vuol vedere il male, lei ricordava il mondiale di nuoto, hanno lasciato in effetti degli strascichi. Credo che Malagò, strascichi negativi anche, di inchieste, cose del genere, credo che Malagò fosse organizzatore o tra gli organizzatori di quell'evento. Comunque, grazie. Andiamo con Fabrizio da Monza, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Vai, Fabrizio. Niente, io chiamavo per il personaggio, forse più il secondo indizio del primo. Comunque, sì. Io pensavo Paolo Rossi, il calciatore. perché ha appena compiuto 60 anni e si è ricordato appunto il mondiale dell'82. Il primo indizio magari un po' forzato, però dato che insomma, era stato fermo per il calcio scommesse, è assolutamente è tutto corretto. È quasi meglio del personaggio nostro, fu molto discusso. È quasi meglio del personaggio che avevamo deciso noi, esatto. Che non è lui però purtroppo. Se, nessuno, se nessuno indovina, glielo diamo ad onore. Esatto, glielo diamo ad onore. Ma al momento... Okay. Al momento non è questo. Non è questo, grazie di aver chiamato. Grazie, buongiorno, complimenti. Grazie, ciao Fabrizio, è il meglio piazzato diciamo tra i personaggi che non erano quelli corretti. Allora, cosa facciamo? Diamo un altro indizio? Dobbiamo darlo un altro forse indizio? Forse sì, perché non manca molto, mancano 20 minuti. Cosa diciamo? Diciamo che le hanno suonate a tanti. Questo personaggio le hanno suonato, ho dato due indizi un doppio indizio, il terzo e il quarto indizio a questo punto è facilissimo. Un anniversario e le ha suonate questo personaggio. 800 24 00 24. Blum, bum, bum. Got a gal named Sue. She knows just what to do. I got a gal named Sue. She knows just what to do. She brought me to the east, she brought me to the west, but she's the gal that I love best. To the fruit, oh fruit, to the fruit. Adesso è il momento di conoscere un altro personaggio, una donna meglio conosciuta come l'archeologa della frutta. È con noi Isabella Dalla Ragione, dall'Umbria in realtà. Buongiorno, buona domenica. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Grazie. Benvenuta Isabella, benvenuta. Grazie. Allora, un personaggio di cui si sono occupati i giornali anche recentemente. Lei vive a San Lorenzo di Lerchi, nell'alta valle del Tevere, in Umbria. Sì. Così, sì. E si dedica a un'attività particolare, che è quella di tenere in vita i frutti antichi, i semi di questi antichi frutti. Così. In realtà quello che facciamo, che ha cominciato il mio babbo negli anni 70, è stato proprio quello di ricercare e salvare queste vecchie varietà di piante da frutto che altrimenti sarebbero completamente scomparse, perché con il boom economico la gente era, come dire, interessata ad altro. Invece noi abbiamo cominciato come delle formichine. In realtà il nome archeologia arborea viene proprio da lì, cioè proprio dal lavoro, come dire, analogo a quello che fanno gli archeologi, no? Da una mela abbiamo ritrovato dei mondi e delle storie dei contadini, degli agricoltori. Facciamo anche degli esempi, no? Perché uno pensa alla mela e adesso sì. Cosa pensa? Un ragazzo, un bambino oggi pensa alla mela e ha in mente davanti solo un certo tipo di mela. Invece quanti milioni di tipi di mele esatto, ci sono? Cioè, adesso appunto al supermercato, ahimè, perché la spesa poi si fa al supermercato, in realtà quello che si trova sono tre varietà di mele, la gialla che è la Golden, la rossa che è la Stark Delicious e la verde che è la Granny Smith. Ecco, questa è la semplificazione che è avvenuta. Invece fino agli anni 50, perché poi ci chiamiamo archeologi, ma in realtà parliamo di periodi estremamente vicini a noi. Sì. Allora, invece, appunto, fino agli anni 50 c'erano centinaia di varietà di mele, pere, susine, ciliegie in tutta Italia. L'Italia è un paese straordinariamente ricco di diversità, no? E quindi è tutto questo. Ogni vallata c'aveva le proprie varietà, ogni vallata c'aveva le proprie particolarità, no? E quindi e questo si è invece tutto perso, ma si è persa proprio la memoria. Anche i ragazzi, vedo che vengono dei ragazzi a visitare la collezione. In realtà purtroppo non sanno più nulla, non sanno più riconoscere neanche le stagioni. E meno male che ci siete voi a spiegarglielo. Mi dice Isabella un esempio di una mela diversa da queste tre che ci avete voi e che invece è particolarmente gustosa? Ci sono delle tante mele. Noi ci abbiamo, per esempio, la mela muso di bue, che è una mela curiosa, che in realtà viene sempre scambiata come pera, perché è una forma della pera rovesciata, no? Ed era una mela molto antica, riprodotta in tutti i quadri del Rinascimento, e in realtà si è completamente persa. Oppure la pera, cioè, non esiste più proprio minimamente? Beh, no, esiste, nel senso che esiste nella nostra collezione, perché noi l'abbiamo in qualche modo salvata e la riproduciamo e la cerchiamo di mantenerla. Oppure, non so, la pera fiorentina, che era una pera antichissima, che anche i frati francescani o benedettini coltivavano e consumavano le sere d'inverno. Quindi c'era proprio questa pratica di consumare tante varietà di frutta, e noi abbiamo cercato di fare questo, di conservare proprio con un'estrema urgenza queste varietà, perché quando diciamo che scompare una varietà, scompare per sempre. Perché questo è certo. Che succede, magari uno non ci pensa, però se tutte le piante di mela a muso di bue, come si chiamava? Vengono tagliate e non vengono in qualche modo riprodotte, poi arriva un giorno in cui non ci sono più nemmeno i semi. Non ci sono proprio più, capito? Cioè scompare per sempre, quindi quanti esemplari, quante piante diverse siete riusciti a raggranellare? Allora, nella collezione della Fondazione Archeologia Arborea adesso sono 500 piante di circa 150 varietà, tra melo, pero, susino, ciliegio, pesco, mandorlo, ecco, queste sono le specie 150 che noi varietà, cioè uno pensa... Sì. Ma quante ce n'è invece in più da salvare? Cioè quante ce ne sarebbero da salvare? Quante ce ne sarebbero da salvare? In realtà ce ne sarebbero da salvare centinaia ancora. Diciamo che... Noi non disperiamo... Ma voi avete spazio per mettere delle altre piante o avete finito lo spazio? Noi di Archeologia Arborea non disperiamo. Ottimo. Continuiamo il nostro lavoro, come dire, imperterriti e molto... È una specie di biblioteca della frutta questa qua, cioè uno viene e consulta e vorrei vedere questa varietà, l'accompagno. Sì, perché poi a ogni frutto ci sono collegate tante storie, tante particolarità, no? Proprio ogni mela, ogni pera aveva un mondo suo, quindi è bello che... Ma qual è il motivo, Isabella, per cui cioè è stata l'industria del cibo, della frutta, l'industrializzazione, cioè per garantire a tutti tante mele si sono prodotti due o tre tipi di mele più resistenti? Esatto, più resistenti no, non è vero, più produttive forse, certo. In realtà... più economicamente vantaggiose. Bravo, ecco, in realtà ci sono vari motivi, diciamo i principali poi sono l'industrializzazione dell'agricoltura e che ha, come dire, portato al cambiamento totale del paesaggio agricolo, quindi del terreno agricolo e del mercato. Ma poi oggi mercato si può conciliare le due cose, perché l'industrializzazione dell'agricoltura da un lato ha garantito a tutti tanto cibo, cosa che magari prima non c'era ed era una cosa positiva, però dall'altro, e ci dispiace, abbiamo la lacrimuccia, si perdono tutte queste varietà che voi così come delle formichine state conservando. Ci si può immaginare un modello dove le due cose convivono? Diciamo che quello che la lacrimuccia in realtà c'è, però voglio dire, quello che noi facciamo non è conservare per romanticismo o perché sono belle e romantiche queste varietà. In realtà il fatto di poter conciliare l'agricoltura e la produzione anche con la conservazione della biodiversità è una scommessa che noi dobbiamo assolutamente vincere, e quindi diciamo che cerchiamo di reintrodurre queste varietà, di farle riconoscere in qualche modo, perché in realtà queste sono le nostre radici, questa è anche la nostra sicurezza alimentare, cioè più varietà c'è e più siamo sicuri di poter in futuro mangiare, coltivare e consumare. E poi anche solo i nomi sono bellissimi, alcuni li abbiamo detti, c'è il fico rondinino di Sansepolcro, la pera carovella, cioè la ciliegia limona, sono bellissimi. No, proprio la ciliegia limona io la chiamo la ciliegia più furba, perché siccome è bianca, è quella che è certo. realtà non viene mangiata dagli uccelli, perché anche gli uccelli non la vedono, è la più furba perché è limona. Ma le volevo chiedere un'altra cosa: ci sono persone che vengono da voi e invece dicono voglio piantare 4 piante di mela a muso di bue e le voglio piantare, sì, nel mio giardino? Allora, ci sono persone che hanno adottato delle piante nella nostra collezione, anche persone piuttosto famose, non so, Bill Pullman, Gerard Depardieu e altri. Però il bue, Depardieu è il bue, immagino. Bue, esatto, no, fa da modello. Depardieu è la pera briaca. Perfetto, perfetto. E invece ci sono tante persone che giustamente vogliono poi ripiantare piccoli frutteti, poche piante nel loro orto giardino. E vengono da voi e trovano tutto quello che serve. Io, l'azienda agricola fa anche questo, fa riproduzione delle piante. Bravi, sì, e chi vuole può venire a trovarvi a San Lorenzo di Lerchi, in bocca al lupo, complimenti. Grazie, che altro dire, Isabella. Bello anche sentirla parlare, ha un'energia trascinante. Ancora un grande saluto, grazie, a presto, ciao. No, pensavo che mi rispondesse, ma si vede, hanno abbassato l'audio. Era già dietro un nuovo frutto. Un cespuglio, già dietro un nuovo frutto. Traffico, torniamo tra un attimo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Ecco qua, ci ha chiamato Alessandra da Udine. Buongiorno Alessandra, benvenuta. Buongiorno, ciao a tutti. Ciao, buongiorno. Ciao. Cosa volevi intervenire? Devo dire il personaggio? Sì. Il personaggio Kurt Cobain, il leader dei Nirvana. Partito subito l'applauso, perché in effetti è partito l'applauso, perché siamo contenti che abbiate indovinato. Diciamo però qual è, a cosa corrispondevano gli indizi, così anche gli ascoltatori verranno eruditi. Sanno che non ci sono dei brogli. Ci sono dei brogli. Esatto. Allora, 25 anni dall'uscita di Nevermind. Brava. Un cantante sicuramente discusso, e le ha cantate veramente a tutti. Esatto. Brava, bravissima Alessandra. Ti porti bravissima a casa i biglietti della mostra di Escher a Palazzo Reale a Milano. Complimenti. Adesso c'è un altro appuntamento che riguarda sempre Milano, di cui vogliamo parlare in chiusura, il Festival della Sharing Economy. Buon viaggio, che sia un'andata o un ritorno, che sia una vita o solo un giorno, che sia per sempre un secondo. L'incanto sarà godersi un po' la strada, amore mio, comunque vada. Vabbè, il viaggio è uno dei classici della sharing economy, no? E forse inizia tutto così con BlaBlaCar, non lo so. Ivo Tarantino, buongiorno, responsabile delle relazioni esterne di Alto Consumo e che è l'organizzatore di Io Condivido, il festival che si tiene al Castello Sforzesco ieri e oggi. Tutto comincia col viaggio. Chi è stato il primo a aprire la sharing economy? Lo sappiamo. La sharing economy, ne parlavamo ieri con il massimo esperto mondiale, sì, che è venuto a trovarci da New York, Arun Sundararajan, è cominciata più o meno 10 anni fa, all'epoca degli inizi della crisi, quando le persone hanno iniziato a mettere a disposizione delle cose che avevano, come una stanza in più, un passaggio in auto, e gli strumenti tecnologici hanno amplificato queste potenzialità, esatto, certamente. Esatto. E si potrebbero dire tante cose su questo appuntamento. Quali sono? Ci sono delle ultime tendenze? Perché ogni tanto esce fuori un settore. Adesso è inverno, sci a noleggio, c'è sharing economy, c'è di tutto, no? Sta uscendo fuori. C'è di tutto, sta venendo fuori di tutto, stanno venendo fuori anche forme di solidarietà. Ieri abbiamo presentato una nuova app che si chiama Last Minute Sotto Casa, che dà l'opportunità alle persone di trovare dei negozi. Abbiamo parlato molto spesso. Gli amici di Torino, esatto, sono bravissimi. Ci ringraziano anche spesso. Perfetto. Le cicogne.net, che dà l'opportunità di trovare una babysitter in poco tempo. C'è PetMe, che ti dà l'opportunità di trovare qualcuno che si prenda cura del tuo cane e del tuo gatto. C'è anche quello sulle donne di servizio, così volevo dirlo. Certo. Cioè, quindi uno pensa una cosa e nel mondo della sharing economy c'è. Io condivido l'appuntamento a Castello Sforzesco. Ivo Tarantino, c'è un appuntamento di oggi che ci tieni a sottolineare in pochi secondi, che poi ci salutiamo? Sì, teniamo a presentare un appuntamento, una ricerca che abbiamo fatto sulle barriere alla sharing economy. Abbiamo a luglio intervistato 1000 persone fra i 45 e i 70 anni, quindi quelle persone che di solito usano meno la sharing economy, per capire come mai non lo fanno, e abbiamo scoperto che la cosa che manca in questo mondo è la fiducia. Queste persone hanno paura di lasciare la loro carta di credito online, hanno paura di mettersi uno sconosciuto in casa. E invece se uno fa il primo passo, poi scopre che è tutto un mondo bellissimo dove la fiducia viene ricambiata abbondantemente. Grazie mille Ivo, siamo in chiusura. Io devo solamente dire questo, che oggi, come dicevo prima, sarò a Firenze Rivista, dove presenterò il mio libro e parlerò anche di diritti alle 18. Invece sempre questa settimana inizia la settimana del buon vivere a Forlì, che va avanti fino al 2 ottobre. Io ci sarò mercoledì 28 alle 17 sempre a presentare, fossi in te insisterei. Bravo, allora un ringraziamento ad Andrea Piana, Claudia Schiattone, Lorenzo Nespoli, Filippo Reggi in regia. Ci sentiamo sabato prossimo, ciao da Alessio Maurizio. E da Carlo Gabardini e anche a chi ci ascolta in podcast. Ciao.